più non tornerai. Domani tu i sogni miei li porterai con te. La fiamma del tuo amore che sol per me sogna in vano, luce di candela che già si spegne piano piano. Una parola ancora dopo svanirà, il breve istante di felicità. Ma com'è triste il cuor se nel pensare a te ricorda i baci tuoi che non sono più per me. Domani tu mi lascerai e più non tornerai. Domani tutti i sogni miei li porterai con te. La fiamma del tuo amore che sol per me sogna in van, e luce di candela che già si spegne piano.